Allora, ben ritrovati sulle frequenze dell'incontro biblico. Adesso vediamo subito quello di oggi. Allora, oggi parleremo dei discorsi di San Matteo. Ok. Allora, noi stiamo affrontando il Vangelo di San Matteo. Vi ricordate, la volta scorsa l'abbiamo presentato e abbiamo visto che Gesù di San Matteo è anzitutto un grandissimo predicatore, quindi il nuovo Mosè che detta i canoni della nuova legge, che vedremo proprio nel discorso di oggi, non annulla ma completa la legge dell'Antico Testamento, il compimento delle promesse antiche dell'Antico Testamento e appunto il nuovo legislatore. E riprendo una slide che abbiamo visto la volta scorsa, che era appunto quella sui discorsi, come sono distribuiti nel Vangelo di San Matteo. Abbiamo il primo grande discorso, che è quello che approfondiremo oggi, anche perché è il più bello e il più importante di tutti, che è il discorso della montagna. Scusate un attimo, io senza questo un po' in crisi. Il discorso missionario, il discorso in parabole, il discorso ecclesiale e il discorso escatologico. Qui, sempre per fare un pochino di ripasso, ricordate dalla volta scorsa l'importanza del numero 5 nel Vangelo di San Matteo. 5 sono le piaghe di Gesù. E oggi cercheremo di approfondire il primo grande discorso di Gesù. Chiaramente adesso faremo un'ampia lettura di ampi stralci, che è il discorso della montagna. Allora, il discorso della montagna, se volete spendere un pochino di tempo speso bene, sono 3 capitoli, è bello corposo. Però, come i bambini a scuola, versetto per versetto, bisognerebbe impararlo tutto a memoria, non sarebbe niente. Se imparate a memoria questi 3 capitoli, e state per tutta la vita a sforzarvi a metterli in pratica, è sufficiente. C'è tutto in questi 3 capitoli. Tanto è vero che è stata chiamata, il discorso della montagna è stato chiamato anche la Magna Carta del cristiano. Lì c'è praticamente tutta la sintesi di ciò che è la dottrina, il cuore dell'insegnamento di Gesù. Tutto. Certamente bisogna piano piano saperlo tirare fuori. Allora, io presenterò prima la struttura di questi capitoli, poi andremo chiaramente a leggere le slides, tra poco le abbandoniamo. Allora, la prima parte del discorso della montagna, che si situa sullo scenario appunto della montagna. Gesù sale sul monte, così come Mosè nell'Antico Testamento salì sul monte, vi ricordate, 40 giorni di digiuno a prendere i 10 comandamenti. Quindi abbiamo il nuovo Mosè che sale sul monte, quindi si mette in cattedra, si siede, sapete che cattedra, da cui deriva cattedrale, noi pensiamo che la cattedra sia il tavolo dove stanno i professori, no, la cattedra è la sedia, perché in greco catizzo vuol dire stare seduti, che una chiesa è cattedrale, voi lo capite, perché lì c'è sta il trono dove sta il vescovo. Voi dovete sapere che i vescovi e i papi, in teoria, quando fanno l'omelia, dovrebbero stare seduti, perché parlano dalla cattedra. Lo sapete che il Papa è infallibile quando parla ex cattedra, si dice, no? Ecco, cioè quando sta proprio esercitando il suo mistero di maestro e di vicario di Cristo in terra. La cattedra, quindi Gesù si siede, proprio dal verbo greco catizzo, quindi si mette in cattedra. Questo dice, attenzione, questo è insegnamento autorevole, parla il figlio di Dio fatto uomo, aprite bene le orecchie e mettetelo in pratica. Ecco. E gli si radunano intorno i discepoli, quindi è un discorso rivolto a coloro che già sono in qualche modo interessati. Se riprendiamo la slide precedente, con questa modalità, adesso dopo devo cercare di entrare in un'altra modalità, perché se no non riusciamo a lavorare bene. E ci riusciamo? Non ci riusciamo. E quando Gesù parla alle folle, parla in parabole. Quindi il discorso della montagna, dove porta proprio dentro i misteri del regno di Dio, è riservato, diciamo così, ai discepoli, cioè a persone quindi che già hanno manifestato una volontà di mettersi alla sequela di Gesù, perché l'insegnamento che presenta è un insegnamento elevato. Quindi se tu non riconosci già in Gesù un maestro autorevole, non ascolterai quelle cose, perché sono cose molto impegnative, d'accordo? Non le ascolterai e probabilmente neanche le comprenderai. Comunque, struttura del Vangelo. Le beatitudini, la prima cosa che vedremo. Le 8, tra parentesi 9, beatitudini. Poi, il discorso sui discepoli come sale della terra e luce del mondo. Poi, ecco, una sezione, diciamo così, programmatica che spiega tutto quello che viene dopo. Gesù dice: io non sono venuto ad abolire la legge dei profeti. Non sono venuto ad abolire, ma in greco il termine si può tradurre in vari modi: completare, perfezionare o portare a compimento. Quindi ribadisco tutto quello che c'è stato nell'Antico Testamento, tutti i 10 comandamenti, con tutti, ma li porto ad un grado ancora più alto. E subito dopo, infatti, scende nei dettagli con l'ampliamento e il perfezionamento della legge. Lo leggeremo con quella sezione. Prende in particolare considerazione il 5° comandamento, il 6° comandamento e il 2° comandamento. Lo vedremo. E lì amplia. Quindi dopo questa sera, quando andrete in confessionale, nessuno dirà più: padre, io non ammazzo, perché Gesù ci spiegherà che ammazzare, sì, oltre che prendere una rivoltella e sparare in testa a qualcuno, si fa con molto di meno, secondo il Vangelo. Ecco. Quindi, poi prosegue il discorso della montagna nel 6° capitolo. Gesù innanzitutto presenta le 3 opere penitenziali, che sono il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Poi ne parleremo parecchio in Quaresima. Quindi presenta le 3 opere penitenziali ribadendone l'importanza e spiegando però come si fanno in maniera evangelica. Poi apre un capitolo molto importante, sempre nel 6° che dice, in queste 2 sezioni, su cosa è il vero tesoro, qual è il vero tesoro dell'uomo e anche però qual è il rapporto con i beni temporali e quindi con la divina provvidenza che ci hanno i suoi discepoli. Questo è un tema fondamentale su cui dobbiamo farci l'esame di coscienza, poi dirò qualcosa. Infine poi c'è il 7° capitolo, dove si parla, si accentua un po', si riprende anche per certi aspetti il tema della carità. Primo, il giudizio, la condanna ferma del giudizio a cui dobbiamo fare tutti sempre molta attenzione. Secondo, la tematica del discernimento: non date le cose sante ai cani, non gettate le perle davanti ai porci. Vedremo che significa. Poi la forza della preghiera, a cui tutti dovremmo credere, la regola d'oro, ecco, diciamo che se uno volesse fare lo sconto, anziché 3 capitoli, qua c'è stato un versetto solo, ecco. Sapete chi? Chiara Lubich, quando esisteva, con i focolarini. È una bella idea questa qui. Lei dà come meditazione un versetto del Vangelo al mese. Che sai, se te mediti un versetto del Vangelo al mese, con 10 anni, però per un mese te lo tutti i giorni, alla fine qualcosa dovrai tirarci fuori, no? Ci sono tanti modi. Questo è un ottimo versetto da tenersi per un mese. Poi presenta dei criteri di discernimento molto importanti. Le 2 vie e i veri e i falsi profeti. Gesù è molto radicale: ci sono soltanto 2 vie percorribili, una è buona e una è cattiva, una è vera e una è falsa. Qui ricalca l'insegnamento dell'Antico Testamento. Se voi prendete i Salmi, bellissimo il Salterio, 150 Salmi, il Salmo numero 1 si intitola proprio Le 2 vie e comincia: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Poi, libro del Deuteronomio, scritto da Mosè: io pongo dinanzi a te la via del bene e la via la vita e il bene, la morte e il male. Scegli dunque la vita perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e abbia benedizione tu e la tua discendenza, eccetera, eccetera. Le vie sono due, non ce n'è una terza. E come due sono le vie, così ci sono due modalità di discepoli, quelli veri e quelli falsi. Sono due modi con cui si approccia Gesù, uno buono e uno cattivo. Quello buono resiste alla prova del tempo e delle prove, quello cattivo alla prova del tempo e delle prove non resiste. È la paraboletta della casa costruita sulla sabbia e sulla roccia. Detto questo, abbiamo fatto questa bella introduzione, adesso dobbiamo uscire da qui e andare a vedere bene i testi. Cominciando dalle 8 beatitudini. Ecco, vediamo un pochino se riusciamo a... Va bene. Capitolo 5. Le beatitudini. Quali sono? Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, beati gli afflitti perché saranno consolati, beati i miti perché erediteranno la terra, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Questo è il testo. Riprendo un attimo le slides perché questo ce l'avevo. Allora, chi sono i poveri in spirito? Non sono i poveracci, i clochard. Povero in spirito è l'umile. Umile è chi è piccolo e chi si fa piccolo davanti a Dio. L'umiltà è la prima porta. Tenete presente che le beatitudini, makarios, in greco significa felice. Cioè, Gesù sta dicendo, se vuoi essere felice anche in questo mondo, questa è la via. Allora, la prima, l'umiltà. Se hai l'umiltà entri subito nel regno dei cieli, vuol dire che se tu non sei umile dentro il regno dei cieli non ci entri. Beati gli afflitti. Gli afflitti non sono i piagnoni, quelli che hanno il muso lungo, che stanno sempre a lamentare, quelli non sono beati, quelli sono infelici, che rendono la vita infelice a sé stessi e a chi è intorno che li deve sopportare. Quindi questi non sono affatto beati. Gli afflitti sono quelli che, come dice San Paolo, piangono secondo Dio, cioè pentiti dei loro peccati, non li fanno più, e pregano anche per la conversione di quelli che li fanno. Ecco, come il santo di oggi, come Sant'Antonio Abate, che è andato nel deserto, ecco, a pregare anche per i peccatori. Questi troveranno consolazione, e troveranno le consolazioni di Dio. Perché voi sapete perché si fanno tanti peccati? Si fanno tanti peccati per cercare nel mondo tante piccole soddisfazioni, tante piccole consolazioni. Se vuoi quelle... Il nostro Signore dice, vuoi quelle? Ti ettere, ma se vuoi quelle, io non ci sono. Se rinunci a quelle, e quindi c'è una piccola sofferenza, avrai le mie. Beati i miti perché erediteranno la terra. I miti chi sono? Sono quelli che sono capaci di dominare l'ira. Attenzione, l'ira non soltanto che non si arrabbiano più. Mo vediamo, A voi mi sa che da quando sono arrivato qua ancora non mi sono arrabbiato. Fammi pensare. Noi diciamo troppo forte. Il santo curato d'Ars è stato 38 anni dentro la parrocchia dove è stato e ha detto che in 38 anni non si è arrabbiato mai. Vediamo quanto resisto. Andiamo avanti al contatore. Ecco. I miti sono quelli che sono capaci di dominare l'ira, che è una cosa difficilissima. Non soltanto nelle sue manifestazioni esterne, perché tu sei mite quando non ti arrabbi più manco anteriormente, non solo che non ti magni vivo il prossimo, ma non ti viene manco la voglia, dici, capito? Che non ti viene manco la voglia di magnartelo. Ecco, perché dice possederanno la terra? Quale terra? La terra La terra siamo noi, cioè avranno un pieno dominio di se stessi, che è difficilissimo, capite? Controllarci ed essere padroni sempre delle nostre reazioni. Poi quelli che hanno fame e sete della giustizia. La giustizia nella Bibbia coincide con il vivere secondo Dio. Avere fame e sete della giustizia, fame e sete sono bisogni primordiali, vuol dire avere un desiderio immenso di diventare santi, che è la prima cosa che Gesù, poi vedremo, ci insegna a chiedere nel Padre nostro. Sia santificato il tuo nome, non vuol dire che il nome di Dio diventa santo, vuol dire fa che il tuo nome sia santificato in me, cioè che divento santo io. Ecco, questi saranno saziati. Allora, se c'è una preghiera che Dio sempre ascolta, ma ascolta Dio quando prego o non mi ascolta? Ecco, tu chiedi sempre, fammi diventa santo, presto o tardi sta preghiera l'ascolta, sempre, perché è la prima richiesta del Padre nostro. Poi, beati misericordiosi. Chi sono i misericordiosi? No. Vi ricordate le opere di misericordia spirituale e corporale del Catechismo 7 più 7? Ecco, in ogni caso sono accomunate da una compassione verso i mali altrui. Nell'indifferenza, chi se ne importa, vedo un affamato, il peggio per lui, né quando si tratta di infermità differenti, tipo sopportare le persone moleste, dico, meno te vede meglio sto, oppure giudico. Quindi la capacità di compatire tutte le forme di male del prossimo, sia quella fisica, sia quella morale, uno che è un po' ignorante, oppure uno che è cattivo, d'accordo? Che è fastidioso, che ti tratta male. Il misericordioso compatisce, sempre. E quello troverà misericordia, dice Gesù. Poi dice, beati puri di cuore, non soltanto i puri di corpo, ma i puri di cuore, perché la purezza vera, quella prova di bomba, parte dal cuore. Se il cuore è puro, non commetterai gli atti impuri. D'accordo? Se il cuore non è puro, farai molta fatica a dominare anche le intemperanze degli occhi e del corpo. Però soltanto i puri di cuore è l'unica beatitudine che ci provvederanno Dio, il che fa capire che fino a quando, io lo dico sempre questo qui, lo dico in tutte le catechesi che ho fatto e tutte le prediche, quando una persona si avvicina a Dio deve se la sua conversione è autentica, il primo peccato che non commette più in nessun tipo e nessuna forma è il peccato impuro, né con gli occhi né con la bocca, né con gli atti, né coi pensieri. Non basta questo, ma fino a quando c'è questo si è sempre molto lontani da Dio, perché Dio non si comunica in nessun modo e non si fa conoscere quando trova anche un tasso minimo di impurità di qualunque forma nelle anime. Lo dice, solo i puri di cuore vedranno Dio, quindi chi non è puro di cuore Dio non lo vedrà, non lo conoscerà. Poi, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, questa è un'ottima cosa da fare nella nostra comunità e in questo modo. Mettere sempre pace. Voi sapete che la grande Santa Rita da Cascia, c'era proprio un ministero a quei tempi, nel Medioevo, faceva la pacera, era proprio un ufficio pubblico. E ce n'era da mettere pace perché c'era il marito che stava a fare guerra con me, che quindi stava continuamente a cucire, d'accordo? Ricucire, d'accordo? Ecco. Non si taglia, quindi non si fanno strappi, non si fanno lacerazioni, si cuce. Questo dobbiamo fare attenzione in tutti i posti dove ci troviamo, in famiglia, sul lavoro, in parrocchia, nella comunità civile. Ecco. Operatori di pace. Mettere sempre pace, cercare sempre la concordia in tutte le forme e con tutti. Io di questo non ho fatto un programma appena arrivato, quindi speriamo che riusciamo a metterlo in pratica. E poi perseguitati per causa della giustizia, che poi diventa la seconda persona, beati voi, chi sono? Sono i santi che subiscono le persecuzioni. Perché quando uno si impegna un po', appresso al Signore, si scatena regolarmente il finimondo. Ecco, quindi Gesù ti promette, ti avverte che purtroppo, ci sono delle lettere bellissime, no? Ma Gesù ci dice, ma una persona che va appresso a Gesù, ma che male fa al prossimo? Lo vediamo, perdona, non fa nessun male, non manda a quel paese nessuno, ma adesso lo vedremo, non insulta nessuno, non ruba la moglie del prossimo, anzi nemmeno la guarda, d'accordo? Lo vedremo. Si abbandona la divina provvidenza, non è attaccata ai soldi, mo sto di tutto quanto il resto, così finiamo prima del tempo. Che fastidio dà? Che fate tanto? Eppure se scatena il putiferio, finimondo. Ecco, perché non dà fastidio certamente alle persone intelligenti, ma purtroppo dà fastidio a quelli che questo mondo domandano, che comandano, che sono i maledetti angeli decaduti che gli scatenano contro il finimondo. E purtroppo questo dobbiamo sopportare fino a quando siamo in questo mondo, ricordando che se siamo fedeli al Signore nonostante le persecuzioni, grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ok? Allora, poi c'è la sezione, come accennavo, sale della terra e luce del mondo. Vado un pochino veloce, se no stiamo qui, il discorso della montagna potremmo continuare fino a domani mattina circa alle 6, quindi andrò un pochino veloce, soltanto per introdurlo, perché poi spero che lo riprendiate con calma e ve lo gustiate, no? Gesù chiama i discepoli, sale della terra e luce del mondo. Voi sapete che il sale indica la sapienza. Sapete che nel battesimo in rito antico, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, al bambino veniva dato un cristallino di sale e il sacerdote diceva, allora in latino, accipe sal sapientiae. È un sacramentale il sale esorcizzato, lo trovate nell'opuscoletto che ho appena scritto, no? Cioè ricevi il sale della sapienza. Voi sapete che il sale dà sapore a tutte le cose, no? Tu puoi fare una grande cucinata, non me lo dite a me, eh? Ah, se mi invitate a pranzo o a cena, fate qualunque cosa, non me la fate sciapa. Ecco. Perché se una cosa è sciapa, tu avevi messo tutti gli ingredienti di questo mondo, avevi fatto la cucina del più grande chef di questo mondo, fa schifo. Ecco, d'accordo? Quindi il sale, invece, se tu fai una cosa, pure se fai la pasta in bianco, la pasta dei carcerati, se ci metti un po' di sale, ci butti sopra un po' d'olio, almeno se lo mangiare. La pasta in bianco senza manco il sale, veramente, ecco, mi fa ripensare a quando andavo in Sud America, dove sono stato un certo periodo di tempo, no? Quindi il sale è simbolo della sapienza. Che vuol dire la sapienza? Vuol dire che noi, figli di Dio, siamo capaci di dare un senso alle cose, a quello che facciamo, di dare un senso alla vita, di dare un senso alle cose che accadono, un senso soprannaturale al nostro agire. Non possiamo essere, come dire, appiattiti sui canoni e sui modi di pensare della gente comune che non ha la luce della fede. E poi la luce del mondo, lo spiega. Che significa la luce del mondo? Risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone. Non vuol dire che noi dobbiamo, come dire, ostentare il bene, ma un discepolo di Gesù che si comporta bene, inevitabilmente si vede che si comporta bene. Perché non è che ci possiamo, cioè, se io sono discepolo di Gesù, non mi posso mangiare io il prossimo, perché se mangio io il prossimo non sono discepolo di Gesù. Quindi se si vede una persona che tratta bene il prossimo, con rispetto, con garbo, che gli sorride, che non lo offende, dà un buon esempio. Non è che si mette in mostra, ma è semplicemente il suo modo di essere che lo dà, d'accordo? Se io da buon discepolo di Gesù entro in chiesa e sto buono, sto in silenzio, sto raccolto, sto devoto, guardo il Santissimo Sacramento, seguo la messa con attenzione senza chiacchierare, non è che sto dando buono, sto facendo una cosa per il Signore, che però inevitabilmente, essendo un essere umano fatto di corpo, dal buon esempio inevitabilmente a chi mi vede, no? Ecco, e questo è molto importante. Poi Gesù dice, non pensiate che io sia venuto ad abolire la legge dei profeti, questo versetto di passaggio che vi accennavo, questi tre versetti, ma sono venuto per dare compimento. Qui traduce da dare compimento, ma si può dire anche, ripeto, completare e perfezionare, si vede subito poi. E quindi attenzione, che chi trasgredisce anche uno solo delle cose che sto per dire, anche la più piccola, e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Grande sarà invece considerato chi li metterà in pratica insegnandoli anche agli altri. E poi comincia, vedete, quinto comandamento. Avete inteso che fu detto non uccidere, giusto? Chi avrà ucciso, io non ammazzo nessuno. attenzione. Ma io vi dico, versetto 22, avete inteso che fu detto, per esempio, ma io vi dico, quindi io adesso, quando Gesù dice ma io vi dico, sta dicendo, va bene quello lì, e io adesso aggiungo qualche altra cosa. Chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Voi vi siete mai arrabbiati con vostro fratello o qualcuno? Mai, no? Se ti arrabbi, peccato contro il quinto comandamento. Allora non puoi andare a dire a Don Leonardo non ho ammazzato nessuno. Sei sicuro che non ti sei mai arrabbiato con nessuno? Ah, poi peggio. Se poi gli dici, attenzione, se poi gli dici stupido, stupido che significa? Voi sapete che ci stanno le parolaccette, io dico ai bambini, e le parolaccione, cioè il turpiloquio. La parolaccetta è un peccato veniale, cioè sarai sottoposto al sinedrio, non dice vai all'inferno, perché è un piccolo insulto, d'accordo? Cioè, non credo che nessuno di noi è contento e dice state zitto stupido. Non credo che sia una cosa molto molto, ecco, ci rimaniamo male. Però se uno ti dicesse, mo non fate essere volgare, state zitto, STRO, è un po' più offensivo. Quindi il turpiloquio, state attenti, che non è un peccato veniale, è una cosa grave, la volgarità, il turpiloquio. E questo Gesù lo spiega anche qua. Con stupido te ne vai al sinedrio, ma se gli dici pazzo, guardate, è scritto qua, non lo dico io, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Sapete che significa? Vai all'inferno. Vi ricordate il catechismo? Quando è che si va all'inferno? Siete capaci di rispondere alla domanda del catechismo? Chi è che va all'inferno? Vi ricordate la domandina? Va all'inferno chiunque abbia commesso anche solo un peccato mortale di cui non si sia pentito. Giusto? Se Gesù dice che se tu dici a una persona, attenzione che pazzo non è neanche una volgarità, ma pazzo è una forma di disprezzo profondo, cioè tu dici a una persona ma tu stai facendo proprio scemo, cioè la stai disprezzando, stai dicendo una cosa brutta, quindi è un'offesa grave alla sua dignità, anche senza che l'hai ammazzata. Quindi si può peccare mortalmente offendendo gravemente il nostro prossimo, figuriamoci se lo dovessimo fare, quindi offendendolo con il turpiloquio, con i termini volgari, la capite? Non sono io, questo è il Vangelo, questo qui, ecco. Poi dice: state attenti, se dunque presenti la tua offerta all'altare, attento, e lì ti ricordi che tuo fratello c'ha qualcosa contro di te, attenzione, non che tu ce l'hai con lui, lascia il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Voi sapete che noi abbiamo questa cosa quando facciamo l'offertorio, sapete che nel rito ambrosiano a Milano il segno della pace lo fanno al momento dell'offertorio, proprio il ricordo di questa cosa che dice Gesù nel Vangelo. Sapete perché ci scambiamo il segno della pace prima della comunione, secondo voi? Che è un gesto simbolico, si potrebbe anche non fare, d'accordo? Io potrei anche passare direttamente all'agnello di Dio senza dire scambiatevi un segno di pace, perché è un gesto simbolico, ma è un gesto significativo. Perché secondo voi ci scambiamo un gesto di pace prima di fare la comunione? Stare attenti, perché la liturgia è intelligente, Perché se tu non stai in pace con tutti, tu non ti puoi fare la comunione. Quindi non soltanto che se qualcuno ti ha fatto qualcosa, tu lo devi già aver perdonato, se no non puoi andare a ricevere Gesù. Ma se qualcuno ce l'ha con te, qui dice, trova il modo di riconciliarti. Perché dice così? Perché se ce l'ha con te, probabilmente gli hai fatto qualcosa. Quindi non devi perdonare, ma forse devi chiedere scusa. E devi andarci a chiedere scusa. Capite? Se no, non solo che non ti puoi fare la comunione, ma non puoi partecipare anche all'offertorio, perché su quell'offerta Dio si gira dall'altra parte. Perché se non stiamo in pace con tutti, Dio non sta in pace con noi. Capite? Quanto è importante? È bellissimo questo discorso, dobbiamo molto approfondirlo. È Gesù, non sono io, ripeto, Lascia il tuo dono. Voi sapete quante volte a me è capitato da prete di trovare situazioni, dice: ah padre, ho litigato con mio fratello e non ci parlo più. È gente che si fa tranquillamente la comunione. Io ho celebrato funerali e familiari stretti, tipo figli o fratelli, non sono andati al funerale della madre o del padre, o del fratello o della sorella. E la domenica dopo stavano in chiesa a farsi la comunione. Oh, ma che sei matto? Cioè, io sto sempre zitto perché cioè, non te puoi mangiare io le persone, ma oh, se tu ce l'hai a morte con tuo fratello e con tua sorella, con tuo padre e con tua madre, ci puoi avere 100 miliardi di buone ragioni, ma tu te puoi fare la comunione, eh? Prima fai pace e poi fai la comunione, eh? Capite? I peccati mortali non è soltanto commettere gli atti impuri, come vedete, cioè perché la gente si pensa che il peccato mortale sia soltanto commettere gli atti impuri. Se non faccio gli atti impuri non faccio peccati mortali. Ma chi l'ha detto? Qui già il nostro Signore ce l'ha detto 2 o 3 grossi. Poi altra cosa, vedete lo stile, mettiti d'accordo con il tuo avversario, non ti metti a fare guerre. Quando c'è una lite, una contesa, ah, mo adesso no, mo te faccio vedere io, c'ho ragione, e te metti a litigare, come discuti, oppure lo porti in tribunale, qua per esempio. Questa non è roba per noi. Dice, mettiti d'accordo, perché se te metti a litigare, qui c'è Gesù, e poi le cose vanno storte, a te ne stai in galera fino a quando non paghi fino all'ultimo spicciolo, d'accordo? Quindi il nostro stile non è litigioso. Che si appiccica le cose, ah, me la faccio pagare, ah, ma qua, ma io ho ragione. Te la può, che ci fai con la ragione? Mia madre diceva, te la fai arrosto la ragione, d'accordo? Calma, c'hai ragione, pazienza, subisci un torto ingiustamente, lo offri al Signore, te ricompenserà in grazie in questa vita e in gloria nell'altra. Non fa niente, non è il nostro stile quello lì di essere, ecco. E con questo abbiamo finito, vedete, il quinto comandamento. Quindi non è soltanto non ammazzare, dire stupido, arrabbiarsi, dire pazzo, qualcuno ce l'ha con te, non ci hai fatto pace, oppure c'hai dei modi troppo aggressivi per risolvere le cose, tutta roba del quinto comandamento. Ecco. Poi, sesto comandamento, non commettere adulterio, disse Mosè, no? Gesù dice, sta attento, anzitutto se tu guardi una donna con desiderio, già hai fatto peccato mortale, anche se non l'hai consumato. Uno. E addirittura, e poi comincia a spiegare, vedete, beati puri di cuore, non basta non commettere gli atti impuri, ma dice, se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, sta parlando del contesto dell'adulterio. Cosa vuol dire l'occhio destro? Il destro è la parte con cui noi facciamo le nostre principali azioni, no? Cavalo, non andate a cavarvi l'occhio, d'accordo, se qualcuno ha fatto qualcosa che non va. Però sta dicendo, sta attento che tu puoi avere uno sguardo disonesto verso qualcuno, quindi piuttosto che fare uno sguardo disonesto, cioè commettere un peccato mortale, cava dell'occhio, perché Gesù sta facendo un discorso iperbolico, no? Se tu fai uno sguardo cattivo, per uno sguardo cattivo se va all'inferno, dice, è meglio che ti capi un occhio piuttosto che te ne vai all'inferno con tutti, capite? Quindi lo sguardo impuro, quindi pensate oggi con tutta la pornografia che sta in giro, è peccato mortale. Oh, se la tua mano destra di occasione di scandalo, qui si entra nello scabroso, ci sono dei peccati impuri, cercate di arrivarci da soli, insomma, ecco. Tagliate le mani piuttosto che usarle malamente su questa materia. Perché è meglio che vai in paradiso monco piuttosto che vai all'inferno con tutte le mani. Sta parlando di questa scabrosa materia Gesù, con un linguaggio sobrio, che però a chi è intelligente, io non entro in particolari perché non mi piace questi discorsi, però capite, no? Ecco. Poi il grande discorso di questi tempi, il divorzio. Divorziamo o non divorziamo, la comunione di sposati, la comunione di sposati. Allora Gesù dice, fu detto da Mosè, ed è vero, chi ripudia la moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, adesso ve la spiego questa frase, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Questa è parola di Gesù, capite? Non potrà mai essere cambiata. Eccetto il caso di concubinato, che significa? Cioè, se il ripudio della tua moglie, no? Se tu hai contratto un matrimonio valido e ripudi tua moglie, la espone all'adulterio. Il concubinato, sapete che cos'è? Oggi è diffusissimo, è la libera convivenza al di fuori del matrimonio. D'accordo? Quindi è chiaro che una libera convivenza al di fuori del matrimonio, non avendo contratto un vincolo, se quella cosa si scioglie, non solo che non c'è niente di male, ma è meglio, perché o si scioglie o si regolarizza. Quindi Gesù sta dicendo, se c'è un matrimonio valido, non si può ripudiare la moglie, perché qualunque altra forma di unione extramatrimoniale è adulterio. L'unica possibilità di scioglimento di una coppia è quella di una coppia che già è legittima, e quindi prima si scioglie meglio è, a meno che non si regolarizzi. Non so se sono riuscito a farmi spiegare, no? E questo vale per il sesto comandamento. Poi c'è il secondo comandamento, nominare il nome di Dio in vano. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Io vi dico, non serve giurare. La Chiesa sempre ha interpretato questo passaggio, se non in caso di circostanze gravissime. Perché non serve giurare a noi figli di Dio? Qui facciamo molta attenzione, ecco perché non dobbiamo mai dire le bugie. Perché se io dico una cosa, il vostro parlare sia sì, sì, no, no. È quella. La fedeltà è la nostra parola data. Se uno mi chiede una cosa, io devo rispondere la verità. Se io ti faccio una promessa, c'è bisogno che dici, ah, ti giuro che se mi fai questa cosa, dopo io... No, non serve. Se io dico, io farò questa cosa, ma io mi faccio tagliare la testa, quella cosa la faccio. Se tu mi fai una domanda e io ti rispondo sì o ti rispondo no, è sì ed è no. Chi è che giura, secondo voi? Giura chi è bugiardo. Perché se tu stai sempre a dire un sacco di bugie, è chiaro che non ti crede nessuno. Allora, capite, qui c'è il secondo e l'ottavo comandamento. Secondo voi la bugia, anche qua, è un peccato piccolo o un peccato grosso? La bugia è un peccato piccolo, ordinariamente, peccato veniale. Però se tu dici un sacco di bugie, c'è il pericolo poi a far grossi, d'accordo? Perché se ogni tanto, se dici una bugia sotto giuramento, poi diventa spergiuro. Lo spergiuro non è più un peccato veniale, se giuri il falso, è un peccato mortale. Poi bugiardi devono essere una memoria, che manco, perché a quello che io ho detto, a quell'altro che io ho detto, ecco, c'ho un computer dietro per ricordarsi tutte le sparaballe a propulsione interna che hanno detto in giro, insomma, no? Ecco, bene, poi me la leggo al dito, ci abbiamo, no? Occhio per occhio e dente per dente. Ah, va tutto bene, ma se qualcuno fa qualcosa la deve scontare. No, noi non siamo così. Io vi dico di non opporvi al malvagio, e qui diventa molto difficile il discorso, eh? Se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgi pure l'altra. E se uno ti chiama in casa per toglierti la lui, gli anche il martello, eccetera eccetera, da chi ti domanda, ecco, siamo capaci di fare questo? Voi capite fino a che grado arriva lo spendersi perché non si diffonda il male, perché la logica del Vangelo è che il male non si vince con altro male, ma si vince col bene. Poi, l'amore al nemico. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo, dirai il tuo nemico. Io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Perché bisogna fare questo? Perché Dio fa così. Non è che Dio te fulmina alla prima cosa grave che fai, te sopporta, ti tollera. Gesù Cristo in croce, noi ci abbiamo sempre come punto di riferimento, perché Gesù è stato un buon maestro, dice, ah no, padre, no no, questo me l'ha fatto troppo grossa, io questo che te amo, ma questo poi me l'ha fatto io, gli rendo par per focaccia. E magari c'è pure ragione, d'accordo, solo che c'è un problema, noi dobbiamo pensarci. Quando saremo morti, noi ci presentiamo davanti a Domine Dio. Domine Dio, dicono tutti, che ci verrà a incontrare abbracciato alla croce. E noi che andiamo a raccontare? Ah, ma c'avevo ragione? E il nostro Signore che dice? E che pensi che io c'avevo torto quando sono in croce? Io c'avevo torto? Gesù ci è andato in croce da innocente e da Dio. E non ha fatto niente. Quindi anche se tu c'hai ragione, te la tieni. Qui cito di nuovo mia madre, no? Quando mia madre ogni tanto mi dava uno sganassone, non troppo spesso, però ogni tanto si sbagliava, nel senso che veramente non avevo fatto niente. E dice, ma io non ho fatto niente. Dice, ma non ti preoccupa, questo è per quell'altro che ha fatto l'altra volta, fa niente. Capite? Quindi magari qualche volta qualcuno ti tratta male, veramente tu c'hai ragione, cioè, non te lo meriti. Ma se tu cominci a esce un po' e dici, Signore mio, non me lo merito, però lo perdono, perché tanto qualche peccatuccio da scontare ce l'ho. Quindi lo mettiamo a sconto dei peccati, perché noi non siamo innocenti come Gesù. Qualcosa l'abbiamo fatta, capite? Per questo che mia madre diceva, evidentemente, tanto questo, ma per qualche altra cosa. Mi cominciava a insegnare i principi della penitenza cristiana, capito? Magari non. Ecco. E vedete le cose che dice, molto interessante. Dice: se amate quelli che vi amano, quale merito ne avrete? Attenzione, se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, attenzione al saluto, perché quando noi ce l'abbiamo con qualcuno, quali sono le prime due cose che facciamo? Non ci parliamo più e non lo salutiamo. Quindi amare il nemico non è che comporta, cioè che chi lo sa quali grandi rapporti, però salutare una persona che ti ha trattato male è un sacrificio, e tu saluti. Parlarci, quindi educatamente, quindi cordialmente, quando lo strozzeresti, è un sacrificio. Basta, non è che devi andare oltre, chissà che devi fare, d'accordo, che ci devi uscire insieme o che ci devi andare a mangiare la pizza insieme, insomma. Queste due cose, non fare la guerra, salutare e comportarti da persona educata. Se uno fa questo, è difficile, certamente. Allora, riguardo la preghiera, il digiuno e l'elemosina, possiamo andare abbastanza veloci, poi leggetelo, perché Gesù dice una cosa molto importante. Questa è la chiave di lettura di tutte e tre quelle cose. Guardatevi dal praticare le vostre opere buone davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre. Quindi se tu fai una preghiera, se tu fai un digiuno o se tu fai un'elemosina, si fa in segreto. Non si dà pubblicità gratuita a queste cose, perché se dai pubblicità, Gesù dice, hai già ricevuto la tua ricompensa. Sull'elemosina dice, non sappia la tua destra quello che fa la sinistra. Sul digiuno dice, non fare come gli ipocriti. Questo in Oriente succede, che se sfigurano la faccia vanno in giro, ah, sono a fame. Tu quando quello digiuni, fatti una bella profuma di la testa e lavati il volto, dice Gesù, perché la gente ti vede tutto florido, ah che bella giornata, d'accordo, che non lo sanno che digiuni. Quindi questa ci educa anche molto bene, perché noi dobbiamo imparare a vivere davanti a Dio e non davanti agli uomini, davanti a Lui. E la stessa cosa vale per la preghiera, no? Questo si capisce bene, per esempio, se uno va in Terra Santa, perché gli orientali, sia gli ebrei che i musulmani, sono molto plateali nel modo di pregare, no? A me, per esempio, io amo, quando prego, la solitudine, il raccoglimento, proprio questi si mettono davanti al muro del tempio, pregano agitandosi, stanno tutti, cioè tu vedi là e dici è brutto. Cioè quando vai capisci proprio il senso di queste parole del Vangelo. Ma mettere in camera tua e fa tutta quanta quella cosa, cioè, per carità, dobbiamo rispettare le culture e religioni differenti, quindi non vorrei adesso sembrare offensivo né esserlo, però bisogna fare attenzione, perché in quelle forme un pochino caricate ci può essere la tentazione di dire, guarda quanto prego, d'accordo, guarda come sto dando culto e gloria a Dio in un contesto religioso. Oggi non è più così, perché oggi se preghi ti viene per scemo, quindi oggi sarebbe vero, forse meglio fare la luce del mondo, insomma. Però in un contesto religioso, mazza questo quanto prega, quanto è santo, quanto è bravo, no? Ecco, non va. Poi il Signore spiega al Padre Nostro, ripeto, se uno fa l'esegesi di tutto il discorso della montagna, stiamo qua fino a domani mattina, mi limito a dire che Sant'Agostino diceva, tutte le preghiere che noi facciamo possiamo sempre farle, ma devono essere tutte compatibili col Padre Nostro, ok? Se esce fuori da quello che chiediamo nel Padre Nostro, la preghiera non va bene. Invece, due parole sul rapporto con i veri e i falsi beni. Gesù dice, non accumulate tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano, dove scassina e rubino. Accumulate tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. E questa è una frase molto importante, perché là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Chi mi conosce sa che quando spiego questo passo io faccio conoscere che in cielo c'è una banca. C'è una banca, sapete? Si chiama la BDC, la Banca del Cielo. Allora, se noi mettiamo nel conto in banca della terra un sacco di soldi, quando morimo, che i soldi restano lì, e servono a farci bestemmia dietro dagli eredi che cominciano a litigare per come accaparrarseli. Adesso, per carità, chi ha i figli un pochino deve provvederci un po', no? Capite bene il senso di quello che sto dicendo. Però l'accumulo indiscriminato di soldi, Gesù dice che non va bene. Usali per farci un pochetto di bene, perché ogni cosa buona che tu fai, ogni centesimo che tu dai nell'elemosina gratuita, sapete che succede? Lo togli dal conto della terra e va nel cielo. Però è l'unico modo di portarsi un po' di soldi all'altro mondo, se impariamo a dare un po'. Se no, questo è. E dobbiamo fare anche molta attenzione, perché i soldi e i beni di questo mondo tendono a captare l'affetto del nostro cuore. L'affetto del nostro cuore deve essere rivolto in Dio. Voi sapete questa storia qui? Sapete l'aneddoto di Sant'Antonio da Padova? Molti di voi non mi conoscono, quindi racconto un pochino di cose nuove. Sant'Antonio da Padova una volta trovò un avaro terribile, non dava una lira a nessuno. Questo un giorno muore e Sant'Antonio fece un miracolo, no? Disse: andategli ad aprire il petto, troverete non il cuore umano, ma troverete il forziere coi soldi. No, scusate. Andategli ad aprire il petto, troverete che il cuore non sta al posto suo. Aprite il forziere e vedrete che il suo cuore sta là dentro. E così fu. Gli hanno aperto il petto, non c'era il cuore stava dentro al forziere dove stavano le monete. È vero questa qua, eh? È documentata. Quindi per far capire quanto è vera questa parola di Gesù, no? La stessa cosa vale per gli occhi, bellissimo. La lucerna del corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è chiaro, guardate che io su questo vi faccio la foto a tutti quanti, tutto il corpo sarà nella luce, ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Guardate, gli occhi, da queste frasi è tratto il detto che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Non vi stupite se ogni tanto quando mi venite davanti io vi fisso un attimo qui, perché io basta che guardo negli occhi 3 secondi una persona e gli faccio la foto di come sta la sua anima. Si vede? E fateci caso anche voi. Quando una persona non vi guarda mai in faccia non è un buon segno. Quando lo sguardo non è limpido, non è solare, non è... Io lo chiamo sorridente, perché anche lo sguardo sorride. Quell'anima non sta bene. Non bisogna giudicare, ma sta bene. Ha bisogno di aprirsi alla grazia e di camminare. Ecco. Poi Gesù dice che nessuno può servire due padroni, o Dio o il denaro, e fa quel lungo, bellissimo esempio: non affannatevi per la vostra vita, di quello che mangerete, di quello che berrete. Ricordate che avete un Padre nel cielo che si prende cura di voi. Ecco. Qui io apro una parentesi, un problema grosso che oggi gira in Italia e nella Chiesa. Voi sapete che le famiglie non fanno più figli. E sapete perché non fanno più figli? Perché non si sono imparati questa parte del Vangelo. Perché cominciano a dire: ma padre, non facciamo a campare. Io pago il mutuo, ho questo, ho quell'altro, lavoro è precario, e come ci arriviamo alla fine del mese? Quindi un figlio, due figli, sapete che stanno su tutte quante le statistiche, fine. Tra l'altro, ricorrendo alla contraccezione, ordinariamente, che la contraccezione già in se stessa è un peccato grave. Ora, ma il problema di questa cosa non è solo la contraccezione, non è solo un problema morale, ma il problema è la scarsa fiducia nella provvidenza. Come mai che le nostre nonne facevano 7, 8, 9, 10 figli? non, quelli, io dico sempre, quelli che facevano digiuno perpetuo, mangiava nessuno, o andavano in giro nudi, o a scuola non ci andavano. Capito? Io de morti de fame per questo motivo non ho mai sentito nessuno. E conosco famiglie, ne conosco tante, che con un pochino di fede lasciano perdere tutti questi discorsi e che anche non avendo grandi mezzi vanno avanti in 3, 4, 5, 6, 7 unità del nucleo familiare. È sempre la provvidenza a provvedere. È un capitolo importante su cui i figli di Dio devono fare caso. Non giudicate per non essere giudicati, perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che è nel tuo. Questo, ricordiamocelo sempre bene. Dicono i maestri di spirito, un santo si riconosce da questa cosa. È miope quando guarda i peccati altrui e c'ha gli occhi di lince quando guarda i propri. Invece, c'ha gli occhi di lince quando vede i pregi altrui ed è miope quando guarda i pregi propri. Solo che, come sapete, come comprenderete, ordinariamente succede il contrario. Noi vediamo molto bene i nostri pregi e poco i nostri peccati. Pensate, quando vado a confessare, delle volte, questo succede pure a me, quando a fare l'esame di coscienza, mi dice di sì, ma io che ho fatto? Fatto niente. Però si dice, che ha fatto quel confratello amico? Ah, quello è un delinquente, quello là, che te l'ha fatto tutti i colori. Corpo. Però voi, no? Tu che hai fatto niente, che ha fatto tua moglie, mia moglie, che ha fatto tuo marito, che ha fatto tuo figlio. È così. Quindi dobbiamo correggere per adeguarci al Vangelo. Poi non date le cose sante ai cani, attenzione. Qui usa delle espressioni forti, tipiche del mondo ebraico, per dire l'esperienza di Dio. Cioè, quando noi parliamo con una persona che è lontana dalla fede, certamente dobbiamo tendergli una mano, dobbiamo essere buoni, ecco. Però una persona che è lontana dalla fede, tu non gli puoi parlare di cose, per esempio, che ne so, le stigma di Padre Pio. Quello comincia a dire che lo stigma di Padre Pio, ma quello era un pazzo isterico, quindi bestemmia. Capite? Quindi una cosa bella, delicata, importante, cioè, capite? Quando io parlo con una persona che è lontana da Dio, cerco di farci qualche discorso, diciamo così, molto molto leggero, molto molto magari per sollecitarlo un po', ma molto alla lontana, quindi senza dargli, capite, delle cose delicate. Questo nella Chiesa primitiva è stato molto applicato alla comunione sacrilega, per esempio, no? Dare la cosa santa a un cane vuol dire chi si accosta alla comunione in stato di peccato mortale senza essersi confessato. Questa è una cosa che nei primi secoli era chiarissima, perché il cane nella Sacra Scrittura è simbolo, è uno dei simboli di chi vive in stato di peccato mortale. Il cane, e non gettate le perle ai porci. Avete visto il nostro parlare comune? Vedete il Vangelo? L'ha detta a cani e porci. Eccolo. Cani e porci, è da qua che viene. Quindi cani e porci vuol dire, come dire persone non degne, ecco, ok? Bene, poi c'è la potenza della preghiera, chiedetevi sarà dato, cercate e troverete, bussatevi sarà aperto, eccetera. Non dobbiamo dimenticarlo. Poi ecco la regola d'oro, abbiamo quasi finito, Un mese su questa va bene? Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi a loro. Non è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, questo è troppo poco. Quindi impegnati a fare agli altri tutto quello che tu vorresti. Vuoi che ti trattino bene? Tratta bene. Vuoi che non ti insultino? Non insultare. Vuoi che ti ascoltino? Ascolta. Eccetera, eccetera, eccetera. Ecco poi le ultime cose, attenzione, le due vie. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece la porta e angusta retta la via che conduce alla vita e quanto pochi sono quelli che la trovano, e poi aggiunge: guardatevi dai falsi profeti. Dentro questo contesto, chi sono i falsi profeti? Gesù sta dicendo: la via del Vangelo è bella, ma per noi tutto quello che ci siamo detti fino adesso è facile? È facile amare il nemico? È facile manco guardare con desiderio una persona? È facile che se qualcuno ce l'ha con te tu gli vai a chiedere scusa? No, non credo che sia facile, è impegnativo, d'accordo? Sei sicuro che se tu mandi a quel paese una persona te ne vai all'inferno? Lo accetti e quindi cercherai di non farlo più? Lo dice: ma che ce fa? Ce l'ho mannato, buonanotte. Allora, la via larga e la via stretta. La via del Vangelo è bella, ma è una via stretta, bella, ma è impegnativa. Questa però è la via del Vangelo. La via larga non è la via del Vangelo, è la via che ti porta all'inferno. Allora, chi è il falso profeta? È chi ti dice che la via che ti porta in paradiso è la via larga, che non lo è mai stata e non lo sarà mai. Sono sempre stati questi qua. E da tempi immemorabili, se leggete gli scritti di Sant'Alfonso, Sant'Alfonso diceva: i fedeli si guardino, li chiamava così, dai confessori rilassati. Cioè, tu devi confessare a uno e devi cominciare a dire: ah, ma questo non è peccato, ah, ma questo non ti preoccupa, ah, ma questo non fa niente, questo... Allora, non è che il confessore ti si deve mangiare vivo quando stai là dentro e ti metti sulla sedia elettrica e ti dà come penitenza che stai 50 anni a dire rosario, però non devo manco di che ci sei venuto a fare, vattene via. Capito? Attenzione, ecco, perché la via larga non è mai stata predicata da nessuno, né da Gesù né da nessun santo. Quindi, per coerenza col Vangelo, noi siamo sempre là, non è che ti ho tanta fatica, no, la via del Vangelo è una vita bellissima, d'accordo, però impegnativa, tutto qua. Se uno si impegna un po', starà benissimo con qualche piccolo sacrificio, però te devi impegnare un po'. E quindi lì dice: come riconosci il vero dal falso profeta? Attenzione, i frutti dall'albero. Infine, l'ultima cosa: non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, a conclusione del discorso della montagna, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E dice poi: la casa sulla sabbia e la casa sulla roccia. Qual è la casa sulla sabbia e qual è la casa sulla roccia? Dice: chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, tutto quello che ho detto fino a mo, è simile a un uomo che costruisce la casa sulla sabbia. Quindi dice: Signore, Signore, io da prete dico, va pure qualche volta a messa, dice pure qualche preghiera, però poi queste cose le dobbiamo mettere in pratica, perché se non le mettiamo in pratica non va. Diceva il libro dell'imitazione di Cristo, dice: quando ti trovi davanti all'altro mondo, il Signore non ti chiede quanto hai pensato o quante messe sei stato o quanto hai pregato, pure questo, d'accordo, ma ti chiede quello che hai fatto. E se hai agito secondo gli insegnamenti che Gesù ha dato, avrai la ricompensa e vai in paradiso, se no no. E questo vale anche per la vita. Sapete, questo è uno dei Vangeli che si legge durante i matrimoni, e concludiamo. Io agli sposi dico sempre: stare attenti, perché per avere un matrimonio benedetto da Dio lo devi costruire prima, già durante il fidanzamento. Il fidanzamento deve essere vissuto secondo la volontà di Dio, nella purezza. Dovete cominciare a pregare insieme, andare a messa insieme, eccetera, eccetera. Ci sono tante queste cose. Quella casa era costruita sulla roccia, quindi che succede? Potranno esserci dei momenti di crisi, dei momenti di burrasca, tutto quello che vuole, ma reggerà. Io purtroppo ho conosciuto una montagna, ahimè, di matrimoni sfasciati. Nessuno, o io l'ho detto pure in pubblico davanti a un sacco di gente in chiesa, nessuno dei matrimoni sfasciati era stato un matrimonio costruito sulla roccia. Cioè ci mancava sempre qualcosa, o in tutti e due gli sposi o almeno in uno dei due. E non ho mai visto rotolare e crollare un matrimonio costruito sulla roccia. La stessa cosa vale per la vita cristiana. Ecco, scusatemi, l'incontro è stato un pochino lunghetto oggi, però tre capitoli di questo genere. Vi invito, in attesa del prossimo incontro, riprendeteli.